canzoni non si scrivono, ma nascono da sé. Sono le cose che succedono ogni giorno intorno a noi. Le canzoni basta coglierle, ce n'è una anche per te, che fai più fatica a vivere e non sorridi mai. Le canzoni sono zingare e rubano poesie, sono inganni come pillole della felicità. Le canzoni non guariscono amori e malattie, ma quel piccolo dolore che l'esistere ci dà passerà, passerà. Se un ragazzo e una chitarra sono lì come te in città a guardare questa vita che non va, che ci ammazza di illusioni, e con l'età delle canzoni passerà su di noi, finiremo tutti in banca prima o poi, coi perché e chissà, e le angosce di una ricca povertà. A parlare degli amori che non hai, a cantare una canzone che non sai come fa, perché l'hai perduta dentro e ti ricordi solo. E per chi si dice addio, per chi sbatte negli ostacoli della diversità. Le canzoni sono lucciole che cantano nel buio. Passerà prima o poi questo piccolo dolore che c'è in te, che c'è in me, c'è in noi, e ci fa sentire come marinai in balia del vento e della nostalgia, a cantare una canzone che non sai come va, ma quel piccolo amore passerà.